Sarebbe interessante essere illuminati da Dio per entrare nel pensiero e nel cuore di questa donna, la Maddalena, Maria nativa di Magdala, e capire che tipo di amore aveva verso Gesù. Nella storia ci sono stati diversi scrittori che l'hanno immaginata in tutte le maniere, hanno fatto anche dei film. Io non li ho visti, ma ho letto le recensioni, piuttosto scabrosi, piuttosto vergognosi anche, come se fosse l'amante di Gesù, come se avesse dato dei figli a Gesù, come certamente non è questo il caso. Però io ritengo che veramente Maria Maddalena abbia amato Gesù anche con il suo cuore. Si tratterebbe di capire che cos'è l'amore. L'amore di una mamma per un proprio figlio non c'ha nulla di impuro, eppure darebbe la vita. L'amore di un uomo e di una donna è fatto di anima, ma è fatto anche di corpo. L'amore verso la Madonna di San Grignon de Montfort, per esempio, che era veramente un innamorato di Maria, era tutto puro. Se io guardo nel mio piccolino, che nella vita ho messo da parte un lavoro, ho messo da parte l'amore a una donna, perché Gesù mi ha conquistato il cuore, posso veramente dire che si può amare Gesù col cuore, senza nulla di impuro, però col cuore di carne, voglio dire. Se penso a un santo, il mio santo che mi ha preso il cuore, Don Bosco, tutte le volte che prendo in mano un libro, magari l'ho letto 2, 3, 4 volte, ma ci ritorno perché mi prende, usiamo questa parola, mi prende il cuore. Io credo che Maria Maddalena si sia anche innamorata come donna di Gesù, nella purezza. Però se io ripercorro anche la Santa Messa di oggi, io scopro tanti. Anzitutto è la prima che va al mattino presto alla tomba di Gesù. Se non sono questi gli innamorati che piantano lì di dormire, si alzano e vanno per vederlo. Poi sento il Vangelo e lei non lo riconosce perché Gesù è in un'altra dimensione, è sempre lui, però ha un corpo spiritualizzato, risorto. Ma quando lui la chiama, Maria, pam, sei tu, Rabbuni. Io non saprei come descrivere, ma credo che veramente sia possibile, e Maria Maddalena ce l'ha dimostrato, amare il Signore Gesù non solo spiritualmente, ma dentro anche con il cuore. Anche dopo la morte di croce ricercò il suo Maestro con tanta passione, questo me lo dice la Chiesa, la passione è un linguaggio d'amore, da incontrarlo risorto e di essere lei la prima a vederlo. Ancora dice il canto allo spezzare del pane: arde il mio cuore, desidero vedere il mio Signore. Che sia come sia, io spero, chiedo che Gesù dia anche a me, dia anche a noi, a voi, di amare Gesù un po' così. Perché se non amiamo Gesù anche con il cuore, ma solo con la testa, solo con la riflessione, è un povero amore. Io chiedo che un po' della passione di questa donna verso Gesù riviva dentro di noi. Nella maniera pura dell'amore, un amore non geloso, un amore pieno, non attaccaticcio, un amore però col cuore. Ecco, sarebbe bello essere poeti e saper descrivere, come sanno fare i poeti, cos'è l'amore, l'amore del cuore che ama senza volersi impadronire gelosamente dell'amore dell'altro, che questa è gelosia, non è amore. O Gesù, insegnaci ad amarti come è giusto e come è bello.